Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette e 9 minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia e i temi di questa giornata economico-finanziaria. Allora, per quello che riguarda, non torneremo sul tema dell'euro, ci mancherebbe. Mi scrive un ascoltatore: ieri ha criticato Grillo e Salvini. Sì, è corretto, non, così come critichiamo il governo, e ricordiamo anche che un conto sono le promesse di una diminuzione di carico fiscale, un conto sono i dati reali, non c'è nulla di nuovo. Abbiamo criticato anche i governi precedenti e anche le opposizioni precedenti. Per chi ha memoria storica, su questo programma criticammo 8-9 anni fa la campagna della Lega contro i dazi, perché ritenevamo fosse una campagna assurda. Dopodiché critichiamo il PD di Renzi, o meglio il governo, quando dice che le tasse si abbasseranno, ma in realtà la pressione fiscale risulta in componente sul PIL aumentata perché aumentano le tasse locali. E anche oggi scopriamo, per esempio, non è una tassazione diretta, ma scopriamo che la stangata retroattiva del governo sui fondi pensione ha portato nelle casse dello Stato 1 miliardo e 100 milioni nei primi due mesi del 2015, il che significa il 93% in più rispetto all'anno precedente, grazie all'aumento dall'11 al 20% dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sui fondi pensione, o meglio sul risultato di gestione delle forme pensionistiche complementari, introdotto con effetto retroattivo dalla legge di stabilità 2015. Anche questo è un aumento della tassazione. Poi bisogna capire qual è il calcolo e il computo complessivo. Detto questo, in apertura ci occuperemo di quanto riporta oggi il Sole 24 Ore, ossia del doppio trattamento, dei due pesi e due misure che la Commissione Europea sta attuando nei confronti delle banche di alcuni paesi, Italia, Spagna, Portogallo e Grecia, rispetto a altri paesi. Perché lo dico? Perché tutti possono pensare che sia l'Italia, o che sia anche l'Italia, aver salvato le sue banche. Allora, noi, a parte l'operazione sul Monte dei Paschi, pagata molto, in maniera molto salata, perché i famosi Tremonti, Monti Bond avevano un rendimento tra il 7 e il 9%, non abbiamo mai salvato una banca in senso stretto. Cosa diversa è successa per esempio in Germania, è successo in Austria con il crollo di ETA. Per cui attenzione, tra l'altro la Gran Bretagna ha salvato le banche. Quindi il fatto che la Commissione Europea abbia confermato ieri che sta studiando come le banche italiane stanno utilizzando i criteri di imposta per migliorare i loro livelli patrimoniali, e teme Bruxelles che dietro queste operazioni possano nascondersi illegittimi aiuti di Stato, va benissimo. Vorremmo però che lo stesso trattamento venisse dato a tutti i paesi. Perché lo dico? Perché sennò un conto è parlare dell'uscita dall'euro, che è un delirio, a mio avviso da un punto di vista intellettuale anche criminale, perché droga, diciamo, quindi spaccia droga, per usare un termine ancora più chiaro. Altra cosa è criticare, e lo facciamo quasi quotidianamente, questa Europa. Ora, il fatto che l'Italia sia il paese europeo che ha speso meno per i sostegni diretti al sistema bancario nazionale, sono solo i 4 miliardi di euro dei Tremonti e Monti Bond al Monte dei Paschi, che si confrontano con i 247 miliardi spesi dalla Germania, che tra le altre cose ha salvato un piccolo gruppo, è una battuta, che è un colosso, si chiama Commerzbank, oppure i 165 miliardi spesi dalla Gran Bretagna, che ha salvato la Royal Bank of Scotland e i Lloyds, i 58 miliardi che ha speso la Spagna. L'unico paese che è messo meglio di noi è la Francia, che ha speso solo 2 miliardi e 6. Allora non si capisce perché, quando salvi le banche, nel caso tedesco, nel caso spagnolo, nel caso britannico, tutto va bene, però poi spacchi il capello in due sui crediti d'imposta utilizzati dalle banche italiane. Questo è un primo tema. Il secondo tema chiaramente riguarderà l'elemento politico nella manovra finanziaria, la rivolta dei comuni. Ieri ne abbiamo parlato a lungo, il Consiglio dei Ministri ha discusso i contenuti del DEF, del documento di economia e finanza, che dovrebbe essere varato venerdì per poi andare all'analisi di Bruxelles. per arrivare, per evitare che scattino le famose clausole di salvaguardia, ossia quelle cose in automatico che scatterebbero dal primo di gennaio del 2016, 16 miliardi in più di IVA e forse accise, se l'Italia non riesce a contenere la spesa come promesso. È una garanzia in automatico che abbiamo dato a Bruxelles. Ora, per evitare questo, il governo deve ridurre di almeno 10 miliardi la spesa pubblica. E per far questo, 2, forse 4 miliardi di interventi sono a carico delle regioni e dei comuni, di questi 10 miliardi. Allora, la rivolta dei comuni è in atto, perché sono soprattutto i comuni questa volta a vedere un taglio netto. Domani vi sarà l'incontro tra il premier Matteo Renzi e una delegazione dell'ANCI, dei comuni italiani, guidata dal sindaco di Torino, che è presidente dell'ANCI, quindi Piero Fassino. E tra l'altro i comuni chiedono la restituzione del fondo compensativo IMU-TASI, che vale circa 625 milioni di euro. Di questo parleremo nella seconda ora del programma. Oggi sono intervenuti Radio 24 sia il presidente dell'ANCI Piero Fassino, che è intervenuto a Effetto Giorno, che il sindaco di Firenze Dario Nardella, che è intervenuto a Mix 24, e ascolteremo ambedue per poi ragionare sul il possibile, diciamo, compromesso, fermo restando che le città come Roma, Napoli e Firenze lamentano dei tagli fortissimi rispetto ad altre città con un principio sostanzialmente vizioso, per cui Firenze meno 23%, Roma meno 25%, Napoli meno 16%, Milano invece solo meno 7%, perché riguarda anche quanto hai speso nel passato, poi lo spiegheremo. L'importante è che non sia una misura punitiva paradossalmente per i più virtuosi. Ancora in apertura, oltre che le banche, anche il tema del petrolio. Che cosa è successo sul petrolio? Non è tanto il valore del prezzo del petrolio questa volta a fare notizia, petrolio a 52 dollari al barile, ma è l'operazione che ha come oggetto il gruppo, il colosso mondiale Royal Dutch Shell, che ha chiuso l'accordo per acquisire il produttore di gas BG Group per 47 miliardi di sterline, circa 70 miliardi di dollari, parte in titoli, parte in contanti. È la maggiore operazione nel settore petrolifero da 10 anni a questa parte. E praticamente Shell pagherà un valore equivalente di 1,37 sterline per azione. La fusione ultimata, gli azionisti di BG avranno il 20% di Shell, ma in realtà al di là di questo l'operazione Shell ha scatenato le ipotesi di un risico nel mondo petrolifero. Non a caso, così veniamo alla borsa, Saipem oggi guadagna il 4,80%, Shell tra l'altro ha guadagnato, è schizzata al 36% di rialzo in borsa, l'indice del comparto appunto. Tra l'altro su questo ci sono altri titoli minori, ma penso a Talov più 11%, Lundin Petroleum più 7,8%, Galp più 6%, British Petroleum BP più 3%. Ecco, ne parleremo a mercati chiusi. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, le altre notizie in breve. In tema di petrolio, anche perché oggi si è scoperto che l'Arabia Saudita, proprio nella logica del braccio di ferro con gli Stati Uniti che abbiamo molte volte raccontato per portare il prezzo del petrolio a livelli così bassi da non rendere più conveniente lo shale oil, quindi il petrolio, diciamo, che si estrae con le sabbie bituminose, insomma. L'Arabia Saudita continua a aumentare la sua produzione, lo ha rivelato il ministro del petrolio Ali Al-Naimi. A marzo ha raggiunto 10,3 milioni di barili al giorno, quindi quasi mezzo milione di barili in più al giorno rispetto ai livelli di febbraio, e supera il record storico della produzione petrolifera dell'Arabia Saudita, quello del 1980. Il record stava a 10.285.000 barili al giorno. gli ordinativi industriali tedeschi, andiamo all'Europa, calano ed è il secondo calo consecutivo, le attese erano di una crescita, calano di quasi l'1% a febbraio. Ma anche qui aspettiamo prima di dire i segnali che sono contrastanti, poi vedremo se oltre gennaio e febbraio arriverà anche un terzo mese di calo continuo degli ordinativi industriali dell'industria tedesca. Per quello che riguarda la Grecia, i progressi fatti finora sono lontani da quello che serve per sbloccare gli aiuti, queste le fonti europee sui negoziati in corso tra Atene e il Brussels Group, come si chiama l'ex Troika. Mentre secondo la stampa ellenica, oggi il Parlamento greco analizzerà un disegno di legge che prevede l'assunzione di 12.000 persone nel settore pubblico, assunzioni che sarebbero in linea con gli impegni che il precedente governo aveva preso con i creditori. Il costo annuale si attesterebbe sui 72 milioni di euro. E poi la visita di Tsipras a Mosca, ne hanno parlato a lungo i nostri GR24. Chiaramente Putin sta giocando sul fronte greco e anche Tsipras sta giocando la tattica sul fronte russo. È molto indispettita l'Unione Europea da questa visita perché teme che si rompa il fronte dell'embargo russo. Non a caso Putin, che ha tanti difetti e come se ne ha, ma certo non è una persona che non sappia usare la tattica e la spregiudicatezza, ha detto oggi, ha evocato le radici spirituali comuni, quindi la fede ortodossa. Ha detto: mi fa piacere incontrarla, rivolta a Tsipras, alla vigilia della Pasqua ortodossa, la nostra Pasqua, la nostra festa comune. La Grecia non ha chiesto alla Russia aiuti finanziari, ma prestiti nel quadro della cooperazione sono possibili, così ha detto sempre Putin. Non vi saranno eccezioni per un paese membro dell'Unione Europea sull'embargo alimentare, perché sapete che la Russia ha posto un embargo su tutti i prodotti ortofrutticoli dell'Unione Europea come ritorsione sull'embargo europeo, però potremmo creare una joint venture nel settore agricolo. E poi ha aggiunto Putin: per noi la Grecia non è il cavallo di Troia nell'Unione Europea. Tsipras ha aperto, ha detto che per superare la crisi in Ucraina è necessario lasciarsi alle spalle il circolo vizioso delle sanzioni. Hanno parlato anche di gas, la Grecia è interessata al Turkish Stream e a studiare possibili iniziative di investimento per realizzare un allacciamento al nuovo gasdotto russo turco che Mosca, lo ricordo, ha annunciato dopo la cancellazione del progetto South Stream. Insomma, sta giocando politicamente Tsipras ed è nel suo diritto farlo, poi ognuno si faccia i conti e le riflessioni in tasca, a partire dalla Germania, se stiamo spingendo la Grecia lì oppure no, oppure se la linea della fermezza è l'unica linea possibile. Io sul tema non vorrei più tornare. La gestione della Grecia da parte di Bruxelles e da parte di Berlino, a mio avviso, è sbagliata fin dall'inizio, per cui proprio abbiamo creato noi, diciamo, il caso greco. Vabbè. Ancora l'Italia. Allora, nel 2014, lo ha scoperto la Guardia di Finanza, è stato irregolare un appalto su tre. Ora, io lo dico con massimo rispetto al mondo dei costruttori, abbiamo spesso ospite il presidente dell'ANCE, Buzzetti, un mondo massacrato dalla crisi, che ha un fatturato che è del 40% sotto i livelli pre-crisi, e l'ANCE fa un'opera anche meritoria per quello che riguarda il tentativo di trasparenza, però il dato è un dato che fa cascare le braccia, cioè un appalto su tre irregolare è un livello da paese del terzo mondo, se non si offende il terzo mondo. Cioè appalti pubblici stiamo parlando, perché di questo si occupa la Guardia di Finanza, per 1,8 miliardi, più di un terzo di quelli controllati e monitorati sono stati assegnati illecitamente. La Guardia di Finanza ha verificato 220 appalti per un valore complessivo di 4,6 miliardi, 1,8 miliardi erano appunto assegnati in maniera illecita, denunciate 933 persone, 44 arrestate. Tra frodi e finanziamenti pubblici e sprechi nella pubblica amministrazione, lo Stato ha subito un danno di 4 miliardi e 100 milioni nel 2014 pensate con quei soldi che cosa si sarebbe potuto fare per abbassare un po' le tasse, che siano gli 80 euro anche a chi non li ha avuti, o che sia IRAP in meno per le imprese, no? Cioè, allora, 4 miliardi che vanno illegalmente a alimentare la corruzione, la criminalità, l'andrangheta, la mafia, la camorra, i tangentari, che notoriamente poi non è che li mettono in dichiarazione dei redditi questi soldi, per cui diventano, no, è inutile fare ragionamento, ma vanno comunque in circolo. No, non vanno in circolo, finiscono nei paradisi fiscali o vengono investiti in forme illecite, per cui è inutile ragionare come si faceva una volta, tanto comunque restano nell'economia. Non restano nell'economia. 3.300 le persone denunciate per i reati contro la pubblica amministrazione, 8.000 evasori totali scoperti. Il rapporto della Guardia di Finanza infatti non riguarda solo gli appalti. 1 miliardo e 200 milioni il valore dei beni sequestrati per i reati tributari. E proprio su questi dati si concentra oggi l'analisi, i famosi 100 secondi di Radio 24, Sole 24 Ore, che vengono trasmessi anche su Radio Dimensione Suono. La firma oggi è del vice direttore del Sole 24 Ore, Alberto Orioli. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alberto Orioli. Il dato contenuto nel rapporto annuale della Guardia di Finanza è davvero inquietante. Un appalto su tre tra quelli controllati nel 2014 è risultato assegnato illecitamente. Le Fiamme Gialle hanno verificato 220 appalti per un valore complessivo di 4,6 miliardi, di cui 1,8 sono stati quindi assegnati fuori dalle regole. Complessivamente sono state denunciate 933 persone, di cui 44 arrestate. È una goccia nel mare, ma segnala il rischio di un'anomalia grave e conferma che Tangentopoli probabilmente non è mai finita. È quanto mai urgente la riforma del codice degli appalti, peraltro oggetto di una profonda revisione proprio in queste ore in Parlamento. La babele di norme, di procedure più o meno bizantine non ha evitato le scorrerie del malaffare, a conferma che in realtà la semplificazione facilita il sano svolgimento delle attività e facilita anche i controlli. Tornando però al rapporto delle Fiamme Gialle, nel 2014 sono stati identificati oltre 3.700 responsabili di reati contro la pubblica amministrazione. Gli sprechi certificati hanno toccato la somma di 2,6 miliardi, che si è accostati alle frodi, ai finanziamenti pubblici e al welfare, pari a 1,5 miliardi, fanno quasi una mezza manovra di bilancio. L'Italia, vista dalla Guardia di Finanza, è anche un paese di falsari e di economia al contrario. I falsi, i marchi truccati che danneggiano il Made in Italy e i consumatori hanno raggiunto un record. Sono stati sequestrati 290 milioni di prodotti contraffatti o pericolosi, 1.400 tonnellate e oltre 500.000 litri di generi alimentari contraffatti. Per una volta il rapporto delle Fiamme Gialle omette di enfatizzare cifre mirabolanti del presunto accertato come evasione fiscale, salvo poi ridurlo a somme infinitesimali quando si tratta di trasformarlo in somme effettivamente recuperate e riscosse. È un approccio che però rende ancor più credibile i dati drammatici di un'Italia che francamente non vorremmo esistesse. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Occupiamoci adesso dei casi italiani. Una risposta: io non ho detto che è un criminale, ho detto che intellettualmente è un atto intellettualmente criminale. Ho detto è come spacciare droga, intellettualmente parlando. Dire che uscire dall'euro non comporterebbe problemi per i mutui, per il debito, per i debiti espressi in euro, per i tassi di interesse, per l'inflazione che andrebbe come sempre a bastonare chi è già povero, come sempre accaduto quando hanno svalutato alcuni paesi le valute, chi l'ha presa in quel posto, scusatemi francesismo, sono sempre state classi basse e medio basse, perché chi ha tanti capitali va sulla valuta forte e ci è già andato e li ha già messi lì. Chi resta col cenno in mano sono i lavoratori di tutti i giorni, che vedono schizzare l'inflazione, schizzare i tassi di interesse, la fuga di capitali e quant'altro. Allora, non dire questo e continuare a raccontare, come fanno alcuni partiti politici, che l'unica soluzione sia uscire dall'euro, che risolverebbe i nostri mali, come se i nostri mali non fossero corruzione, burocrazia, pubblica amministrazione, Evasione fiscale, scarsa competitività nei settori interni, è un atto intellettualmente criminale spacciare droga e dire prendi questa cosa che i tuoi problemi saranno risolti, ok? È spacciare, bene? E intellettualmente spacciare, e lo confermo. Poi uno può dire quello che vuole, mica c'è un reato di apologia dell'anti-euro o di apologia della liretta, è semplicemente un atto intellettualmente, dai. Sì, criminale sarò io, va bene, va bene, va bene. Allora, professor Donato Masciandaro, buonasera. Buonasera. Ho la prima parte, la seconda non è stata male. No, vabbè, non si preoccupi, lei insegna politica monetaria alla Bocconi di Milano, editorialista del Sole 24 Ore. No, è che io dico, attenzione però, uno può dire guardate che l'euro a noi non piace, ma dire che non, come l'attacco che il sottoscritto ha ricevuto sul blog di Grillo ieri, dicendo che tutto andrebbe bene, che il debito italiano è garantito tanto dalla legge, che la Banca d'Italia garantirebbe in ultima istanza, significa fare disinformazione come spacciare droga. È come dire prendi questa pastiglia che i tuoi problemi sono risolti. Voglio dire, sei intellettualmente un criminale, ma che cosa vuol dire? Non c'è nessuna banca centrale al mondo che di fronte a una svalutazione sia riuscita a reggere il colpo della svalutazione. Cosa fa una banca centrale? Aumenta i tassi di interesse, così la gente non porta i soldi all'estero. E chi la prende in tasca quando aumentano i tassi di interesse e aumenta l'inflazione importata, perché i beni li paghi in dollari, i beni importati, quindi schizza il valore del petrolio e dei derivati? Di solito le classi più basse, quelle che proprio i 5 Stelle e la Lega vogliono difendere, se ho ben capito il programma politico. Ecco perché parlo di, diciamo, oppio dei popoli, si può dire, così citiamo Marx. Allora, scusate la digressione, ma al 20° insulto anche le formiche. Allora, professor Masciandaro, invece critichiamo l'Europa, che è altra cosa da chiedere l'uscita dall'euro. Perché sì, si esce dall'euro e entra la neuro. Ecco, chiudiamola così, che scrive un ascoltatore. Perché la Commissione Europea, lei oggi ha scritto un durissimo commento su Sole 24 Ore, ha confermato che sta analizzando l'uso che fa l'Italia o le banche italiane dei crediti d'imposta per migliorare i loro livelli patrimoniali. Vuole capire se dietro ci sono possono essere aiuti di Stato. Fin qua tutto bene. Cos'è che l'ha fatta così arrabbiare da scrivere, da definire strabica Bruxelles? Il fatto che ci si concentra su dei travicelli e dimenticando le travi che sono ancora sospese in giro. Per essere molto semplici e diretti, in tema di regole bancarie c'è tanto da fare. Per esempio, chiederci come rendere meno pericolose dal punto di vista del rischio sistemico le banche universali, questo non piace ai banchieri, è chiaro, però chi fa le regole non deve pensare a quello che piace o non piace ai banchieri. Invece, negli Stati Uniti come in Europa, questi problemi sono sotto la sabbia, si finge, se ne parla, si enunciano principi, ma poi alla fine non si fa nulla. E poi invece dove si agisce sono sul contorno, per esempio il tema che lei ha ricordato di chiedersi se i crediti d'imposta di fatto che le banche hanno in 3-4 paesi, inclusa l'Italia, possono o no considerarsi aiuto di Stato. Ora, mi sembra è come se discutere di fronte a un incendio, ci stiamo chiedendo se una tenda è ignifuga o meno. E questo mi sembra paradossale. Sì, allora, lei dice, intanto, vista l'aria che tira, forse è veramente spaccare i capelli in due. Dopo il meteo e la pubblicità, però vorrei capire se e come sia possibile che Bruxelles indaghi su come utilizzano le banche italiane, ma non solo italiane, perché la Commissione ha chiarito, stiamo facendo anche la stessa analisi su Spagna, Portogallo e Grecia, perché vogliamo avere maggiori informazioni sui deferred tax assets, cioè la tassazione differita, i crediti d'imposta che alcune banche possono utilizzare a fini patrimoniali. Io vanto un credito e lo uso come patrimonio. E dico, come si tenga assieme un'Europa che è così ligia, così attenta, così appunto tignosa sui crediti d'imposta, e invece una stessa Europa in cui la Germania ha speso 247 miliardi per salvare le sue banche, la Gran Bretagna ne ha spesi 165, la Spagna 58 miliardi. Io non ho capito se qui siamo di fronte agli animali della fattoria di Orwell, tutti uguali ma alcuni più uguali degli altri. Dopo il meteo, la risposta. Per lavoro o vacanze, scegli il noleggio Europcar. Europcar, moving your way. Vi presenta Cus Economia. Are you with me? Are you with me? Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, professor Masciandaro, ho capito che la Commissione europea è molto tignosa, è molto puntigliosa, e lei dice: ma mentre brucia un bosco, andare a guardare se sono ignifughe le tende della casa messa in mezzo al bosco è un po'. Vabbè. Ma diciamo così: gli euroburocrati, per cui io ho simpatia pari a zero, ci hanno abituato a questo e ad altro. Altra cosa però è dire: esistono due pesi o due misure? Perché io citavo prima del meteo gli aiuti tutti regolari, però se quando si fanno i maestri o le maestrine bisogna anche stare attenti, perché la Germania, a proposito di maestrine, ha speso 247 miliardi per salvare il suo sistema bancario, tra cui il colosso Commerzbank, per cui non è che fosse solo il Monte dei Paschi, che pure pagheranno gli ex vertici, le condanne in alcuni casi sono già arrivate, ci mancherebbe. Però noi abbiamo speso 4 miliardi dati al 7-9% di prestito, la Germania ha speso 247, 165 la Gran Bretagna, che ha salvato tra l'altro i Lloyds e la Royal Bank of Scotland, 58 miliardi li ha spesi la Spagna, l'unico paese che ne ha spesi un po' meno dell'Italia è la Francia, che ne ha spesi solo 2 miliardi e 6. E adesso l'Austria è nel pieno del crollo di ETA, la bad bank dell'austriaca Hypoalpe, che tra l'altro ha portato al salvataggio della tedesca Düsseldorfer Hypobank, molto esposta, è stata salvata dall'associazione delle banche private tedesche, dall'ABI tedesca, aveva un'esposizione di 348 milioni di euro. Immaginate cosa sarebbe successo da noi se l'ABI avesse salvato una banca. Allora, perché due pesi, due misure, o almeno così sembra? Allora, la risposta è sì, esiste sistematicamente il rischio dei due pesi e delle due misure quando si parla di regole bancarie e finanziarie, perché la dinamica di quelle regole è retta da due tipi di leggi, quelle economiche in senso stretto e quelle politiche. È sempre così. Se questa è la diagnosi, qual è la terapia? La terapia è che servono dei contrappesi per evitare i due pesi e delle due misure. I contrappesi sono in senso virtuoso i governi nazionali, e qui c'è da far migliorare le regole europee. E allora qualche volta bisogna sbattere i pugni sul tavolo. Posso fare un esempio concreto? L'esempio concreto sì. È il seguente: un trafiletto di qualche giorno fa del Financial Times ci ha raccontato come è nata una, tra virgolette, come è finita una, tra virgolette, guerra tra la Banca Centrale Europea e Londra. Il contendere era la possibilità di avere delle clearing house su strumenti in euro in località non facenti parte dell'Unione Economica e Monetaria. Traduzione: Londra vuol fare delle clearing house in strumenti denominati in euro. Sì, chiariamo cosa sono le clearing house. Sono delle stanze, diciamo, sono il cuore dei mercati, vale a dire sono delle stanze di compensazione per cui gli acquisti e le vendite si compensano, e questo rende il mercato più efficiente perché si riducono i rischi e aumenta appunto l'efficienza degli scambi stessi. Quindi Londra vuol fare questi mercati, la Banca Centrale Europea nel 2011 aveva detto no, per fare i mercati in attività denominati in euro bisogna essere dentro l'euro, Londra ha sbattuto i pugni, ha detto che avrebbe ricorso, ha iniziato azioni legali, e alla fine, qualche giorno fa, c'era solo un trafiletto sul Financial Times, peccato, pare che abbiano trovato un accordo, quindi l'accordo è in favore di Londra. Londra potrà, se vuole, ospitare questo tipo di mercati. Perché faccio questo esempio, senza entrare nel merito della vicenda? È che Londra ha sbattuto i pugni e qualcun altro forse dovrebbe farlo. Ecco, io devo dire una cosa, perché poi alcuni ascoltatori vorrebbero che criticassi il governo tout court, però preferisco criticare nel merito, secondo me, io continuo a pensarlo, la posizione del governo di Renzi nei confronti dell'Europa, è inutile vantarsi di i maggiori margini che ci ha dato un po' il patto di stabilità o far finta di credere che il piano Juncker serva a qualcosa, come cerca il ministro Padoan di dire. È molto timida, cioè è ancora troppo timida, per meglio dire, e questo vale sia per un'Europa che deve darsi un po' più di coraggio in questo periodo, in questa finestra di opportunità che ci danno il dollaro forte e il petrolio debole, i tassi ai minimi, sia quando si assiste nel caso specifico a doppi trattamenti, e anche andando a rimarcare un po', come fanno certe persone maliziose, tutte le cose che non vanno bene negli altri paesi. O no, Mascendar, perché ho la sensazione che poi si faccia la voce grossa in Italia. Noi di solito discutiamo perché non ci troviamo d'accordo. Io con lei, per esempio, sono in disaccordo totale sulle banche popolari, lo dico a chi pensa che il professor Mascendaro, essendo docente della Bocconi, sia già allineato con il gruppo Bilderberg. Ci siamo amabilmente mandati a quel paese non più tardi di un mese fa sulle banche popolari, perché io difendo la riforma, il professor Mascendaro no. Si chiama libertà di opinione, e quindi tutto va bene. In questo caso sono completamente d'accordo, perché la timidezza non fa male solo all'Italia. Io continuo a pensare che fa male prima all'Europa, perché essere timidi, non far capire quali sono le regole che vanno bene per tutti e che devono andare bene per il futuro di un'industria bancaria e finanziaria, e invece appiattirsi, prendiamo il tema degli stress test, è stato gestito malissimo dalla Banca Centrale Europea. Hanno avvantaggiato le banche del Nord Europa che investono in equity, cioè in titoli azionari o addirittura in prodotti derivati, penalizzando le banche, per esempio quelle italiane, che vanno a prestare soldi alle piccole e medie imprese, perché adesso è troppo lungo spiegarlo, ma insomma sei più a rischio quando presti soldi a una piccola e media impresa che quando non fai un investimento speculativo. E per me è una follia, visto anche quello che è successo nel 2008, però nessuno si è permesso di alzare un dito, neanche il ministro Padoan, se ricordo bene. No, nessuno. Devo dire che la ribellione più evidente alla fine è stata la conferenza stampa contemporanea di Francoforte e Roma, in cui si parlava di dati completamente diversi, e alla fine i risultati degli stress test erano diversi. Ecco, una cosa del genere in un sistema federale sarebbe clamorosa. In Europa è successo. Avrei voluto vedere se fossero state le banche britanniche o le banche tedesche o le banche olandesi ad avere il trattamento a sfavore, non so come dire, no? Cosa sarebbe successo? Oppure lei immagina, immaginiamo tutti, negli Stati Uniti la Fed che pubblica i suoi stress test, e in contemporanea in Florida le autorità bancarie locali, ci sono anche lì, danno dei risultati completamente diversi. Sì, infatti. Ecco, ma lei ci sarà fatto una domanda e dato anche una risposta sul perché ci sia questa timidezza del governo, cioè nel senso che, ripeto, o uno si sente ancora in colpa, ma voglio dire, io, mio sogno, un'intervista di Renzi, che è presidente del Consiglio, in quanto presidente del Consiglio, al Frankfurt Allgemeine Deutsche Zeitung, al principale settimanale tedesco, al Zeit, a chi volete voi, e lo Spiegel, scusatemi, chi volete voi, che dica: scusate, la Germania, però attenzione, avete salvato le vostre banche e avete pagato 250 miliardi, per non parlare di come erano messe le vostre casse di risparmio locale, no? Le casse di risparmio dei vari Länder, su cui, diciamo, dire che i bilanci sono nebulosi è essere buoni. No, forse anche ricordare che qualche sassolino c'erano pure loro, no? Chiedo. Lei ha citato il mio articolo di oggi sul Sole, io concludevo con una domanda, perché il silenzio? Allora ci sono due estremi, i due estremi erano machiavellica miopia o dilettantismo, questi sono i due estremi, cioè c'è un quid pro quod più ampio, per cui si chiudono gli occhi su certi... Perché c'è un'altra partita sotto, dice lei? In generale, sul tema dello scenario europeo, e quindi noi vediamo solo la punta di un iceberg, e della punta peggiore, cioè regole sbagliate nel campo bancario finanziario, Oppure l'altro opposto dei dilettanti allo sbaraglio, della superficialità su certi temi, dell'aver voluto a tutti i costi magari un vertice apicale di un presunto ministro degli esteri europeo, che mi sembra non sia il massimo dell'efficacia, e invece dimenticare che quello che conta in Europa è tutto il middle management, cioè tutti coloro che sono nelle posizioni intermedie e che poi fanno le regole in Europa. Non so quale dei due estremi sia meglio o peggio, ciascuno di noi poi può decidere. Beh, guardi, sulla Mogherini non ha colpa, la Mogherini non contava l'Ashton prima e non conta la Mogherini adesso. Temo che sia lì. È stata una battaglia che noi personalmente diciamo che bisognava avere un commissario italiano, o l'industria, ma c'era già stato Tajani, o almeno l'agricoltura, perché quelli poi contano di più, hanno voluto fare Mrs. Pesce, va bene, però su questo a mio avviso lei ha ragione, cioè bisogna stare attenti, anche perché delle volte la sensazione è che poi piacciono più i tweet e certe frasi ad effetto, e poi non si vada a vedere quello che penalizza effettivamente un settore o un paese, perché quando le banche hanno più difficoltà a prestare alle piccole e medie imprese per la regola europea, poi la prende male l'intero paese, non solo il mondo bancario, non solo le piccole e medie imprese. Grazie intanto a Donato Masciandaro. Il traffico, poi la borsa e poi andiamo anche a questa enorme operazione di fusione nel settore petrolifero da 60 miliardi di euro. Focus Economia. Allora, prima di arrivare all'operazione della Shell da 60 miliardi di euro, parliamo di borse, ma questo c'entra, nel senso che oggi l'operazione ha fatto salire tutti i titoli legati al settore petrolifero. A casa nostra Saipem ha guadagnato il 5,14%, perché per così parallelo si va a ragionare su possibili altre operazioni. Eni però più 0,30%, molto bene Salvatore Ferragamo più 6,28%, Moncler più 2,40%, oggi una buona giornata per il lusso, Tod's più 2,40%. Se posso permettermi, la vera notizia di oggi però riguarda l'Asia. Perché? Perché l'indice di Hong Kong ha toccato sostanzialmente, l'Hang Seng ha toccato il livello più alto dal giugno del 2008. Bene anche la borsa di Tokyo questa mattina, di cui ci occupiamo poco, colpa mia, per le misure della Bank of Japan, che continuerà a aiutare l'economia indebolendo lo yen. L'euro sul dollaro a quota 1,08. Allora, Vincenzo Longo, market strategist di IG Markets, buonasera. Buonasera a tutti. Ogni tanto noi ospitiamo appunto gli operatori dei mercati. Allora, per quello che riguarda il clima, Milano ha fatto meno 0,50, Parigi meno 0,30, Francoforte meno 0,70, Londra meno 0,35%. C'è un dato non eccezionale sulle vendite al dettaglio nell'area euro. In Germania ricordavamo in apertura un brutto dato sugli ordinativi industriali, che sono calati per il secondo mese di fila a sorpresa, perché ci aspettava un aumento. Energetici e lusso, prego Longo. Sì, diciamo che oggi la performance più brillante ce l'hanno regalata qualche titolo energetico, complice, come accennava lei, l'accordo di vendita di acquisizione, in questo caso di Shell su BG. È stato un accordo che in qualche modo ha favorito di più Saipem, che è uno dei gioiellini di Eni, che è stato in vendita sul mercato per diverso tempo e poi la vendita è stata bloccata. A questo punto gli operatori iniziano a scontare la possibilità che voci di M&A, quindi fusione e acquisizione, possano interessare anche il gioiellino di Eni, quindi Saipem. Certo. Saipem comunque sappiamo da tempo che Eni sta valutando se venderla, nel senso che, no? Esattamente, è stata in vendita fino all'anno scorso, poi Eni ha deciso di rilanciare l'azienda perché era stata colpita da due profit warning che avevano in qualche modo allarmato gli azionisti, sì, sì, e quindi anche potenziali compratori. In questo momento però le voci e le azioni di fusione e acquisizioni sul mercato si stanno proliferando. ieri abbiamo parlato di un'altra operazione molto importante e oggi ci ritroviamo a parlare di una del comparto petrolifero, anch'essa molto importante. Sì, ecco, va detto una cosa però, attenzione che... su Saipem il titolo a agosto, a metà del 2012, era sui 40 euro, 39, 35 euro per azione. Mi ricordo, insomma, i primi sei mesi del 2012 e anche nel 2011 viaggiava a 38, 37 euro per azione. Lo dico perché, nonostante il rialzo, adesso siamo a 11 euro per azione. Perché anche... nel 2014, da metà giugno, quando è scomparsa l'ipotesi di vendita da 20 euro, è passato a 8 euro, a 7 euro, 6 euro, poi adesso sta risalendo, però non più tardi di nemmeno 3 anni fa, 2 anni e mezzo fa, insomma, poi i calcoli sono un po' sbagliati, ormai sono 3 anni, agosto e aprile 2012 valeva 37-38 euro, scusi se l'ho interrotta. No, no, niente, però ho precisato che da giugno il calo che ha interessato Saipem è stato per lo più dovuto al forte crollo delle quotazioni del petrolio, sì, che in qualche modo hanno portato dietro tutti. Senta, mi dà anche una previsione, lo chiedo agli ascoltatori, sul rapporto euro-dollaro, secondo voi, e poi andiamo sul lusso? Beh sì, la nostra previsione è che in questo momento il cambio possa ritornare sopra area 1,10 e qui se ha l'opportunità di andare oltre probabilmente potremmo assistere ad un euro dollaro in area 1,12-1,13 durante l'estate, perché poi a fine anno la discesa dovrebbe riprendere e potremmo arrivare addirittura perché alla parità. Perché aumenterà i tassi la Fed per questo? Esattamente, okay. Quando la Fed inizierà ad alzare i tassi di interesse ci saranno nuovi acquisti sul dollaro che spingeranno il cambio verso area sulla parità sostanzialmente a inizio 2016. Il lusso e poi vado io sui bancari. Oggi tutto bene il lusso. Voi siete Il lusso oggi, il titolo che ha segnato, diciamo, la miglior performance è stato sicuramente Ferragamo, nuovo massimo storico, sì, in area 31 euro, un titolo che viene da una performance reduce comunque da settimane abbastanza positive e oggi è stato aiutato da un report di Credit Suisse che in qualche modo vede in positivo la seconda parte del 2015 per tutto il comparto. Noi siamo un pochino più scettici, nel senso che se ci dovesse essere un clima più disteso geopolitico, soprattutto nei confronti della Russia, che è un mercato importante per il lusso made in Italy, probabilmente ci si creeranno le condizioni per tornare a vedere ricavi in crescita un po' per tutto il settore del lusso italiano, altrimenti potremmo assistere a delle ricavi quantomeno in flessione o in linea con quelli dell'anno scorso, anche perché stiamo andando incontro ad un rallentamento della Cina, che è un altro mercato molto importante per il settore del lusso italiano. I bancari, allora do le variazioni, poi se ho 20 secondi il suo commento. Banca Popolare meno 2%, Unicredit meno 1,50%, Generali meno 1,30%, Pop Emilia Romagna meno 1,12%. C'è un elemento un po' tecnico sul Banco Popolare, l'agenzia di rating Fitch ha ridotto il viability rating da BB a BB, da BB più a BB. Comunque, i bancari. Bancari un po' sotto pressione, la Commissione Europea è stata chiamata a giudicare. Ne abbiamo appena parlato, sì, con Masciandaro, certo. Esattamente, esattamente, quindi attenzione, quello è un tema molto spinoso. L'Italia è stato il primo paese a trasformare questi crediti e queste imposte sui crediti come cuscino di capitale, sono stati utili soprattutto per superare gli stress test, quindi se nel caso in cui ci dovesse essere un esito sfavorevole su questo fronte probabilmente ci sarebbero del nuovo capitale da accantonare e potrebbero interessare proprio gli istituti più deboli in questo momento. Allora, debole anche Autogrill meno 1,70 come Telecom, Enel meno 1,60, Azimut meno 1,40, Prismian meno 1,20 come UbiBanca, che è andato bene anche Fiat più 1% come Buzzi Unice, migliori e peggiori in assoluto IKF più 19%, Industria e Innovazione più 14,60, il peggiore Kaleido Group meno 5, la Lazio meno 4,20, Italia Independent meno 4%, GR 24, poi parliamo di petrolio e dei tagli chiesti dal governo ai comuni italiani. Io vorrei un'Europa in cui le persone non hanno paura di perdere la propria nazionalità o le ricchezze del loro paese. E tu come vorresti l'Europa? Ogni giorno alle 14 alle 21.30 Europa 24 ti aiuta a costruirla, informandoti in tempo reale sulla situazione politica, economica e culturale dell'Unione Europea, per essere davvero cittadini d'Europa. In collaborazione con Euronet Plus. Fondi, bot, BTP, PAC, obbligazioni, conti di deposito. Prima di investire, meglio essere informati. Giovedì mattina all'interno di Cuore e Denari non perdete Investire Informati. Investire Informati. Il nuovo appuntamento per conoscere i principali strumenti finanziari e orientarsi nel mondo del risparmio e dell'investimento. Investire Informati. Ogni giovedì alle 11.45. Solo su Radio 24. Focus Economia. E 7 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Berisoni. Devo chiedere scusa agli ascoltatori, c'è stato un errore nel GR che avete appena ascoltato. Chiaramente De Gennaro è presidente di Finmeccanica e non di Federmeccanica, che non c'entra nulla, è tutta un'altra cosa. Chiedo scusa a nome della redazione. C'è stato un refuso, chiaramente Federmeccanica è l'associazione di Confindustria che rappresenta il mondo della meccanica. Finmeccanica invece è la società partecipata dal Ministero del Tesoro che è attiva nel settore aerospazio, difesa e non solo. Allora, chiuso la correzione, andiamo sul tema dal punto di vista della finanza ed economia internazionale più importante del giorno. Mi riferisco all'annuncio da parte del colosso petrolifero Royal Dutch Shell di avere chiuso l'accordo per acquisire il produttore di gas BG Group. Lo pagherà, o meglio, l'operazione vale 47 miliardi di sterline, 70 miliardi di dollari, parte in titoli, parte in contanti, ma per dare le dimensioni è la maggiore operazione nel settore petrolifero, nel settore energetico, perché qua ragioniamo di petrolio e gas, da 10 anni a questa parte. Per ogni azione di BG Group verranno corrisposti 383 pence in contanti e 0,445 in azioni Shell, per un valore equivalente di 1,37 sterline ad azione, con un premio del 50% rispetto all'ultima quotazione di BG Group. Infatti il titolo è salito di quasi il 37% in borsa, un po' in calo la Shell, ma spesso capita quando uno compra e l'altro, quando uno paga e l'altro riceve. Ma si sono mossi, come ricordavamo nel corso dell'appuntamento con la borsa, tutti i titoli petroliferi o legati al settore, da noi Saipem più 5,14%. Sissi Bellomo del Sole 24 Ore, l'esperta del quotidiano del settore petrolifero, buonasera. Buonasera. I motivi che hanno portato a questa operazione, ma anche il ragionamento che viene fatto dal mercato, il cosiddetto risico. Prego. Ma il mercato ovviamente in fibrillazione, perché si immagina che questo sia il primo colpo sparato in un nuovo risico petrolifero che possa annunciare l'arrivo di altre operazioni, acquisizioni e fusioni nel settore. E perché questa fusione? Perché era tanto che gli analisti pensavano che sarebbe iniziato a esserci un po' di consolidamento, perché è sempre successo così in tutte le fasi di petrolio in ribasso, le fasi prolungate di petrolio in ribasso ormai. Cioè si riducono gli utili perché il petrolio costa meno, esatto, e quindi fa guadagnare meno. Le valutazioni delle società scendono. Le valutazioni scendono perché a quel punto tu non hai più dei moltiplicatori attesi di un certo tipo, ma in realtà li hai più bassi e quindi, come sempre capita quando si restringe la torta, la dico in maniera un po' così, si cerca di avere meno persone a tavola, ecco. Per avere c'è anche la fase di difficoltà data dal petrolio basso. Tra l'altro a me ha impressionato oggi, visto che ne parliamo, il dato dell'Arabia Saudita, perché il ministro Ali al-Naimi, ministro del petrolio, che in Arabia Saudita ha un certo peso, mettiamola così, ha confermato che a marzo l'Arabia Saudita ha prodotto a livello record dal 1980 10 milioni e 300 mila barili al giorno, praticamente ha aumentato rispetto a febbraio di quasi 500 mila barili la produzione, altro che smette la braccio di ferro. Mi sembra che l'Arabia Saudita continui con l'idea che teniamo basso il prezzo del petrolio e cacciamo fuori dal mercato le compagnie americane che stanno ottenendo il petrolio dallo shale oil e quant'altro. Ti ho interrotto però il ragionamento che viene fatto sul settore. Comunque è questo lo scenario in cui si svolgono queste operazioni finanziarie. Sicuramente l'Arabia Saudita, ricordiamo, forse sta anche prevenendo un ritorno sul mercato dell'Iran. Se continueranno ad andare bene le trattative, le sanzioni verranno tolte, arriveranno altri centinaia di migliaia di barili anche dall'Iran. Sì, certamente è una guerra all'ultimo sangue. Le compagnie si riducono le valutazioni, chi è un po' più robusto finanziariamente, il caso delle major, Shell ha un bilancio ben più forte di altre società e approfitta delle valutazioni ridotte e anche delle possibilità che ritiene, diventando più grande, di affrontare meglio un mercato più difficile, un mercato in cui il petrolio vale meno e potrebbe valere meno, valere poco ancora a lungo. Ecco, le prossime mosse, se vi sono, che si aspettano gli operatori. Sapevamo che, ne parlavamo prima, Saipem fino a un anno fa era sul mercato, a dire in vendita, poi l'offerta, o meglio la disponibilità dell'Eni, è stata ritirata anche per i bassi prezzi e di conseguenza Saipem è calato ulteriormente, oggi è cresciuta. Ma al di là di Saipem, Saipem è un caso un po' diverso, anche sì, perché non produce petrolio, è una società di servizi, poi c'è tutta la questione della quota in mano allo Stato, certo. È un po' diverso. E poi ha stupito un po' questa operazione Shell BG, perché molti analisti pensavano che si aspettasse ancora un po', che scendessero ancora le valutazioni. In realtà è una mossa molto ottimista, se vogliamo vedere, perché dando addirittura un premio del 50% rispetto al valore delle azioni, è implicito che Shell si aspetti che il peggio è passato, forse nel mondo del petrolio. Questo fa anche dubitare a qualcuno della reale possibilità che seguano molti altri merger dopo di questo o molti altri a breve. Era successo alla fine degli anni 90, quando il petrolio era crollato, sì, che si crearono il gigante Exxon Mobil. Da Exxon e Mobil BP si comprò Amoco e Arco, Chevron un po' più tardi comprò Texaco. Allora ci fu veramente un'ondata di mega mergers. Questa volta le società sono già molto grosse. Si parla di altri possibili target, ovviamente. Quelli di cui si parla più spesso sono Tullow o piuttosto Premier Oil, società di medie dimensioni come BG. BG era la più grossetta di queste. Comunque medie mi sembra anche tu d'accordo con l'idea che siamo solo all'inizio per usare un titolo, cioè che se il petrolio resterà a questi livelli intorno ai $50 vedremo altre operazioni. Abbiamo già visto rivedere tutti gli utili attesi, tutti i grandi gruppi al mondo, nessuno escluso. Però potrebbe essere solo l'inizio. Personalmente credo di sì, penso che molte prede possano essere tra i produttori shale oil americani, che sono quelli in maggiori difficoltà economiche, hanno un fortissimo livello di indebitamento, alcune sono veramente sull'orlo della bancarotta. Perché prevedevano un petrolio dai $70 in su. Perché erano tutte operazioni a leva fortissima, hanno finanziato le loro operazioni indebitandosi follemente e poi il petrolio è sceso, il petrolio che viene usato anche come collaterale per ottenere i finanziamenti, certo, per cui si riduce il valore. Cioè come garanzia, lo spiego. Come garanzia. Se va male ti do i barili. In questo senso l'operazione saudita un po' di successo lo sta avendo dal punto di vista dei sauditi, fermo restando che però altri produttori di shale oil riescono a lavorare bene anche con un petrolio a $50, non sono tutti uguali, non è tutto uguale tipo di estrazione. Grazie anche a Sissi Bellomo del Sole 24 Ore. Ultimo tema di questa puntata. Invece la manovra finanziaria, o meglio il documento economico finanziario che il governo poi illustrerà nel dettaglio venerdì, ieri alcune anticipazioni del Premier Renzi, ma oggi la reazione dei comuni italiani, che sono quelli tra virgolette più colpiti tra gli enti locali, nel senso che il governo vuole trovare 10 miliardi, deve trovare 10 miliardi di tagli se non vuole che scattino in automatico le clausole di salvaguardia il 1 gennaio 2016, che vuol dire 16 miliardi in più di IVA e forse accise. Di questi 10 miliardi di taglio alla spesa, buona fetta, tra i 2 e i 4 miliardi, dovrebbero arrivare dalle regioni, dai comuni. Dicevo, domani incontro con Fassino, inteso come sindaco di Torino e presidente dell'ANCI e il governo. Oggi già alcune reazioni, sentiamo, l'hanno presa bene, devo dire, i sindaci. Sentiamo il sindaco di Firenze, Nardella, oggi ospite di Giovanni Minoli a Mix 24, appunto Radio 24. Particolarmente importante anche perché Nardella, da sempre, è il braccio destro di Renzi, stavo dire, una delle

Voglio dire, il problema nostro è quello di fare una discussione serena per vedere come si può dare soluzione a queste tre città, fermo restando che noi per il resto, sia l'accordo che abbiamo fatto sui tagli ai comuni, il miliardo e due della legge di stabilità, sia alcune altre cose, abbiamo convenuto un accordo col governo e per noi questo vale. Quindi... Allora, già ritrovati, qui si sta facendo un po' di confusione, perché c'è da un lato il patto di stabilità interno, dall'altro i tagli dei trasferimenti ai comuni decisi in legge finanziaria. Mi sembra che il tema sia molto sulle città metropolitane, in primo luogo, quindi non su tutti i comuni piccoli. Faccio notare che complessivamente i comuni dal 2010 ad oggi hanno ricevuto 17 miliardi di euro in meno, di cui 8,5 per il patto di stabilità, e 8,5 come riduzione della spesa, per cui va detto che complessivamente abbiamo fatto praticamente una manovra finanziaria in questi 4 anni solo sui comuni, perché 17 miliardi è il valore di una manovra finanziaria, per cui per dare a Cesare quel che è di Cesare, non è che i comuni non abbiano partecipato alla riduzione, eh? E poi uno può obiettare, sì, ancora voi raccontate tutto quello che volete, però andiamo a vedere poi i tagli che hanno fatto i vari ministeri su questo. Però il tema riguarda le città metropolitane e da che cosa è nato, perché poi dice Fassino, sì, c'è un po' di un'enfasi mediatica eccessiva, insomma bastava sentire Nardella prima. Fassino parlava a effetto giorno con Simone Spezia, ma Nardella parlava 2 ore prima appunto da Giovanni Minoli. Allora Gianni. Allora, questi sono i tagli previsti dalla legge di stabilità. Legge di stabilità, quella votata a dicembre. Certo. 1,2 miliardi per i comuni, 1 miliardo per le province e le città metropolitane, perché le città metropolitane sono governate dai sindaci ma sono ancora dentro al pacchetto province, sono le ex province, sì, di, certo, Milano, trasformate, Firenze, in città metropolitane. Allora, cosa succede? Il taglio alle province, alle città metropolitane, detta in sintesi, è basato su questa ipotesi. Tu, città metropolitana, con le tue risorse fiscali, imposta di trascrizione quando compri un'auto, addizionale RC auto e addizionale ambientale, puoi prendere X, hai Y, io ti taglio in proporzione a quanto puoi prendere. Allora, questa roba qui, siccome i gettiti sono molto diversificati fra le varie città, ha creato differenti tagli nelle città. A Firenze c'è un problema in più. Firenze, la città metropolitana ex provincia, è una delle pochissime ad avere l'aliquota dell'addizionale provinciale RC auto al 12,5, mentre quasi tutte le altre ce l'hanno al 16. Quindi potrebbe, siccome il calcolo delle risorse fiscali è stato fatto ai massimi, lei non è al massimo, Firenze, e quindi ha un taglio superiore, perché si dice, vabbè, ma se tu la porti ai massimi, l'RC auto un po' recuperi, no, di questi milioni che ti tagliamo. È un po' un invito, diciamo così, a aumentare la tassazione locale. Questo è il punto. Il DEF arriva dopo, perché il DEF arriva a guardare. Ieri Renzi ha detto non ci sono tagli per il 2015. Il DEF infatti è relativo al 2016. Sì, non ci sono 2018. Neanche aumenti di tasse, ha detto Renzi, se ho ben letto. Ha detto tantissime cose ieri Renzi, però se il DEF vero e proprio sarà venerdì, sì. Io personalmente non ho ancora capito come il Presidente del Consiglio possa sbilanciarsi il martedì su una cosa che verrà chiusa il venerdì, perché se già ce l'hai buttalo fuori adesso, se non ce l'hai aspetta a dire, perché faccio l'esempio di Firenze, così torniamo sul tema che ci contrappone al governo, che dicono quelli che pensano che siamo renziani. Cioè, tu hai ben dire, non ci sono aumenti di tasse a livello nazionale, ma se poi mi aumentano tutte le aliquote locali, e non è solo lì l'addizionale IRPEF, ma appunto è anche l'RC auto, io come cittadino, fossi fiorentino, l'aumento di tasse lo vedo. Ecco perché poi quando l'Istat ci dice nel 2014 la percentuale di tasse sul PIL è aumentata dello 0,1%, dice una cosa vera e sembra, tra virgolette, andare contro il governo, ma non è così, è semplicemente il fatto che conta anche la tassazione locale. Come si chiuderà? E soprattutto, diciamo, è vero che c'è un'eccessiva enfasi mediatica? Beh, no, un'eccessiva enfasi mediatica, insomma, i sindaci se lo stanno anche un po' gridando uno contro l'altro, perché Bologna allora ha risposto a Firenze, se Nardella dice quello che dice e che abbiamo sentito si deve dimettere da coordinatore delle città metropolitane e così via. come si chiuderà, non si chiuderà domani, alla fine si chiuderà con un compromesso e a metà anno, fine anno, vedremo che ancora un po' di aumenti di tassazione locale probabilmente ci sono, perché qui il sistema deve assorbire 2,2 miliardi di euro di tagli che diventano 2,5 con le code delle manovre precedenti, e in più non c'è la replica del fondo TASI. Cos'è il fondo TASI? Quei 625 milioni che avevano aiutato i comuni a mettere delle detrazioni della TASI sull'abitazione principale. Se non hai il fondo e non hai le detrazioni, la pressione fiscale aumenta. Ecco, questo era dove volevo arrivare, perché a Firenze il taglio richiesto è del 23% rispetto ai livelli medi di spesa corrente, quindi sono 26 milioni di euro in meno. A Roma il 25%, pari a 89 milioni, a Napoli 65 milioni in meno, Milano invece, tra virgolette, risparmiata, la limatura è solo del 7%. Però le città che ho appena citato, questi soldi, certo che possono risparmiare, certo che possono razionalizzare, però poi con molta probabilità li otterranno anche attraverso un aumento della tassazione locale. E questo va detto... E deve anche dirlo il governo con maggiore chiarezza, a mio avviso, se no continuiamo ad avere una vulgata governativa. Le tasse non le ho aumentate, ho capito, ma se mi entrano dalla finestra, io onestamente queste tasse le vedo in aumento. Non giochiamo con le parole. Grazie a il nostro Gianni Trovati, da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata, noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24. La passione si sente.